molto presto per andare a lavorare. Lo faccio per 6 giorni solamente per mangiare. E aspetto la domenica con molta ansietà per un bicchiere di vino se la squadra vincerà. Io canto qualche volta nella solita balera. Mi dicono sei bravo, presto tu farai carriera. Ragazze bionde e brune mi adorano perché quando canto affascino le nonne e i bebè. Ai, ai, ai, la vita è bella, non mi importa come va. Se domenica allo stadio la mia squadra vincerà. Vinciamo, vinciamo. Diventare un bravo calciatore, ma poi ho rinunciato perché debole di cuore. Il medico mi disse lei giocare non potrà, non faccia troppi sforzi altrimenti morirà. Avrei potuto avere l'energia del gran campione e invece mi ha trovato anche basso di pressione. E l'unica speranza di guarire, lo so già, è quella di vedere la mia squadra in Serie A.